di condividere le cose. Quindi andare a Roma, sono tre anni che finisci di essere qui, per me è stato e grazie. Oh,